parliamo della canzone che abbiamo appena ascoltato, Bologna sotto i portici, che in altre parole vuol dire Bologna, perché i portici sono proprio una parte fondamentale di questa città che entrambi amiamo molto, credo si possa dire. Sì. E in questo brano Massaro di pianoforte, che come giustamente dicevi abbiamo seguito negli anni, diciamo che si inserisce, non lo so, forse non esisteva, forse si sta creando la tradizione musicale di canzoni che descrivono gesti polemici a Bologna, inaugurata forse da Calcutta con la famosa svastica fatta solo per litigare. Qui abbiamo, no, non so se ci ha pensato quando la scriveva, ma chi lo sa? Tutti mentre l'ascoltavo, non è neanche poi fondamentale. Qui abbiamo Massaroni pianoforte che piscia sotto i portici dopo un concerto non andato benissimo, e io qui empatizzo, anche se non sono musicista, perché mi capita spesso di andare come pubblico a concerti veramente belli, veramente meritevoli, dove siamo i soliti proverbiali quattro gatti. Sì. Quindi continuate a suonare, insistete, perché il pubblico può emergere nei modi più strani, e comunque anche solo ricevere il plauso di una persona, io ho sempre considerato che possa essere una bella soddisfazione. Sì, ascolta, diciamo anche, guarda, una frase che ha scritto Massaroni in pianoforte per presentare questo brano, che è uscito da pochissimo: con questa canzone voglio omaggiare questa splendida città, ossia Bologna ovviamente, che ho conosciuto soprattutto attraverso la penna di Lucio Dalla, ed è il mio personale abbraccio a chi non ha ancora trovato il suo posto nel mondo, anche se quello stesso mondo, quando vuole prenderci a schiaffi, ci trova sempre. È uscito il 17 giugno questo brano, ed anticipa il nuovo album di questo cantautore, che è di origine della provincia di Pavia, che è il suo sesto album. Insomma, noi lo aspettiamo dopo l'estate, immagino, e ne parleremo sicuramente a Zibaldone. Ma Banzo, noi non parleremo di Bologna in questa puntata di Zibaldone. È una falsa pista? Sì e no. Lo sapevo benissimo, però ho voluto fare un po' di recitazione. Sì, in un certo senso non lo è, perché parleremo comunque di una città, anche questa a noi molto cara, cioè una città che ci è molto vicina, al punto che ci siamo dentro, Steven, perché parleremo della nostra Barcellona, perché il titolo della puntata è Barcellona e l'Italia. Il titolo, se volete, molto generale, quasi vago potremmo dire, ma in realtà poi sapremo dargli un giusto punto di vista, una giusta descrizione che gli darà il significato che vogliamo che acquisisca, perché parleremo di un libro in particolare. Ecco, bando alle ciance, andiamo subito al punto, perché poi il tempo in radio è tiranno. Parleremo di un libro che è uscito da poco, di Amaranta Sbardella, che ci accompagnerà in questa puntata di Zibaldone. Il libro si intitola Solare, notturne e sonora, letteratura e cultura italiana a Barcellona. È un libro uscito in catalano da pochissimo per una nuova collana dello stesso comune di Barcellona, Barcellona e la letteratura universale. Ecco, e questo primo volume è proprio dedicato al rapporto tra Barcellona e la letteratura italiana, e gli scrittori, i registi anche di cinema, di teatro, i poeti ovviamente, ma anche la stessa comunità. Ecco, sapete che la comunità italiana a Barcellona è cresciuta moltissimo negli ultimi anni, attualmente gli italiani sono i più numerosi tra le comunità straniere residenti nella Ciutat Comtal, e tra l'altro, ecco, lo dico anche, poi parleremo di altro sicuramente con Amaranta, nell'ultimo capitolo, che parla anche un po' degli ultimi anni, di come è cresciuta la comunità italiana a Barcellona, di cosa fa, di che progetti porta avanti, anche dal punto di vista politico e comunicativo, si nomina anche il nostro Zibaldone. Quindi Banzo, ecco, siamo finiti anche su un libro serio. Beh, guarda, sono contento, perché tanti anni al piede del cagnotto Insomma, dai, è un bel riconoscimento per un libro che è veramente molto molto interessante, quindi apparirci anche solo con una menzione fugace mi riempie di gioia. Comunque c'è qualcuno che non si è reso conto del fatto che la comunità italiana è la più numerosa a Barcellona, ed è il consolato italiano, Steven. Ma passerei ad annunciare il prossimo brano che si intitola Barcellona. Esatto, ci porta a Barcellona, dove peraltro siamo già. Ed è un brano degli Statuto, un gruppo leggendario della scena torinese, tratto da un disco del 2022, Il migliore dei mondi possibili, che ripercorre la storia del gruppo, ed è poi usciva accoppiato anche a un libro scritto dal leader del gruppo, Oscar Gianmarinaro, Racconta anche un mitico viaggio in Vespa verso il raduno mediterraneo Modern di Barcellona del 1986, quindi diciamo che c'è un collegamento non fugace, anche se gli Statuto sono, come sa tutto l'universo, di Torino, perché Piazza Statuto è la piazza che ha dato il nome al loro gruppo, e dicono nella canzone: Barcellona ci sembra la nostra città, Barcellona un po' di cuore resterà. Ecco, io non so se Barcellona e Torino si assomiglino, non lo dico con spirito polemico perché amo tantissimo Torino, è una città bellissima, vorrei conoscerla meglio, ma non so se assomiglia tantissimo a Barcellona. Però ascolta, Amaranta Sbardella, che è romana, vive a Torino, quindi adesso insomma parleremo anche di questo insieme a lei. Andiamoci ad ascoltare gli Statuto. Più che mai. ospite di questa puntata di Zibaldone, ve l'abbiamo già spiegato prima, è Amaranta Sbardella. Lei è docente, traduttrice dal catalano e dallo spagnolo all'italiano, è stata anche visiting professor alla UB, l'Università di Barcellona, ha tradotto tantissimi testi, tantissimi autori catalani e spagnoli, tra cui Rodoreda, Espriu, Ferrater, eccetera. Ha scritto anche un saggio, Il mostro e la fanciulla, e un libro di racconti, Barcellona desnuda, usciti ormai qualche anno fa. E adesso, oggi è qui per parlarci invece di un nuovo libro molto bello, un progetto tra l'altro molto interessante, promosso dall'Ayuntamiento, dal Comune di Barcellona. Il libro si intitola Solare, notturna e sonora, letteratura e cultura italiana a Barcellona. È un libro uscito in catalano che apre una collana appunto dedicata alla relazione tra la città di Barcellona e la letteratura e gli scrittori, la cultura di altri paesi. È uscito infatti anche già un altro volume di Riccardo Ripoglia Villanueva, dedicato alla Barcellona vissuta e scritta in francese. Innanzitutto, Amaranta, un piacere averti con noi, buon pomeriggio e benvenuta a Zibaldone. Buon pomeriggio, un piacere tutto mio e grazie per avermi con voi. No, il piacere è nostro per parlare di una tematica enorme. Potremmo dedicare puntate su puntate per parlare di questo libro e quindi invitare anche i nostri ascoltatori alla lettura, a cercarselo, perché merita moltissimo. Insomma, tu qui hai ricostruito un percorso che potrebbe, insomma potrebbe valere un'enciclopedia, ecco, dall'Ottocento fino agli ultimissimi anni di questa prima parte del XXI secolo. Ecco, come è nato questo progetto e soprattutto come hai cercato di mettere insieme un po' tutti questi pezzi di un mosaico che è difficile da ricostruire? Allora sì, il progetto è nato qualche anno fa in realtà, ma ha avuto alcuni ostacoli iniziali. È nato da un incarico, il direttore della collana, appunto questo testo inaugura una nuova collana che è Barcellona nella letteratura e che quindi fa riferimento alle varie comunità che esistono a Barcellona e vuole indagare la letteratura di queste comunità. E quindi Joan Ferrarons, Ilia Gustera, che è il direttore della collana, un giorno mi invitò a un caffè e mi parlò di questa proposta e da lì è nato tutto. In realtà sono stati mesi e mesi di lavoro denso, di ricerche, d'archivio. Nel frattempo avevo avuto un bambino e quindi a 3 mesi è stato forzosamente caricato sull'aereo per passare da un museo a un altro, a un archivio, e quindi poi alla fine piano piano il libro ha preso forma e devo dire che è stato l'idea, c'era quello di raccontare Barcellona, nel mio caso, che ho dovuto lasciare per alcune ragioni personali, dalla nostalgia e dalla nostalgia verso questa città. E poi nasce come progetto, nasce anche dal desiderio di raccontare una Barcellona diversa, che avevo già fatto con Barcellona desnuda, e poi di vedere tutti quei legami che si vengono a stabilire tra personalità più o meno note ai barcellonesi stessi. Se parliamo di un Pasolini è abbastanza noto a Barcellona, ma magari se parliamo di un Tondelli o parliamo di, non so, anche di un Marinetti, forse sono figure sconosciute. Quindi è nato così, in questo modo, cercare di scoprire, allo stesso tempo scoprire, cioè nel senso far scoprire agli altri, ma allo stesso tempo scoprivo io stessa, mentre da un autore ne arrivava un altro, poi arrivavo al cinema, da qui al teatro, alle edizioni. È stato una scoperta per me, un grandissimo piacere. E poi tutto quanto è finito, è stato compattato in un libro che voleva essere più agile che non enciclopedico, ecco. Certo. Però sì, c'era molto, anche molto di personale, credo. Sì, il dono della sintesi, insomma, diciamo così, perché è un libro di poco meno di 200 di più o meno 200 pagine, ecco, che racchiude più di un secolo e mezzo praticamente di storia. Ecco, da questo punto di vista, gli inizi, no? Quando comincia questo legame che poi diventa sempre più stretto con il passare del tempo tra Barcellona e l'Italia, tra la cultura italiana e quella barcellonese catalana e anche al contrario tra quella catalana e l'Italia? Dove metti tu, diciamo, il punto di partenza o il momento chiave di una relazione che poi si fa più stretta? Allora, io penso in realtà che inizi già prima, quando c'è la corona d'Aragona, però è lungi da noi trattare tutto questo aspetto, perché davvero avrebbe preso dimensioni bibliche. E quindi sin dalla corona d'Aragona i legami sono sempre stati molteplici. E poi, diciamo, in realtà è un libro anche stratificato, quindi parla non solo della popolazione dei migranti che arrivano a vario titolo, ma anche delle persone che vengono invitate, quindi intellettuali, artisti, eccetera. Per cui, se vogliamo parlare di migranti soprattutto del nord Italia, ma non solo, perché c'erano anche i ramari della Calabria, che arrivano a Barcellona, questo può avvenire nella seconda metà dell'Ottocento, perché intravedono nella città dei conti la possibilità di dedicarsi all'ozio dei barcellonesi, e quindi fondano hotel, fondano bar, i più famosi erano proprio italiani, oppure ci sono i fabbricanti di pianoforte, gli insegnanti di pianoforte, insomma tutto ciò che è ozio, che è svago dei barcellonesi viene fornito proprio dagli italiani, appunto in vario modo. Canto poi piano piano ai bombaroli. Sono le due figure che rimangono scolpite nell'immaginario barcellonese di quegli anni, il suonatore d'arco e poi l'anarchico. Quindi, diciamo, arrivano queste due figure. E poi però più avanti, diciamo, sono tante le date e se parliamo di intellettuali invece possiamo riferirci a varie visite puntuali, non c'è poi un evento culminante che decreti l'arrivo o un'ondata particolare, sono piccoli micro inviti, micro viaggi molto interessanti, molto curiosi, a volte anche divertenti, perché la ricezione da parte dei barcellonesi non è sempre uguale e a tratti anche particolarmente feroce, però diciamo che inizia questo grande esodo completamente diverso dall'esodo che ci sarà poi negli ultimi 30 anni, nell'epoca contemporanea, inizia proprio dal 40, 1840-50 in poi. Sì. E tu poi ricostruisci appunto i legami, ecco, non solo tra la comunità italiana che vive a Barcellona, ma appunto anche tra la cultura, no, italiana e la città di Barcellona e la cultura barcellonese catalana, cercando di mettere in ordine in questo panorama così complesso, seguendo alcuni canali, no? Quello della poesia, quello della prosa, appunto quello del cinema o quello del teatro. Ecco, se seguiamo, ecco, per dare anche degli spunti ai nostri ascoltatori, alcuni di questi canali, diciamo la poesia. Sulla poesia, cos'è la cosa che ti ha stupito di più quando, insomma, hai fatto queste ricerche? Quello che non ti aspettavi, al di là di cose che già si conoscevano appunto nel legame tra Barcellona e l'Italia? Allora, direi scoperte. Allora, sicuramente non sapevo del passaggio di alcuni personaggi, nel senso che magari avevo sentito parlare di Marinetti, ma non sapevo di come fosse stato accolto, cioè in una maniera, appunto, venne insultato, fischiato sui giornali d'epoca, si fecero delle caricature, venne chiamato appunto l'evangelista della stupidaggine. Poi lì un po', devo essere sincera, mi sono molto divertita anche a riportare queste citazioni su Marinetti, perché sono davvero strepitose nella loro ferocia. Quindi di alcuni sapevo il passaggio, ma non sapevo come era avvenuto. Diciamo che poi per altri in realtà è stato anche lì, è stato uno scavare continuo e alla ricerca di qualcosa che non fosse stato detto, cioè nel senso, noi conosciamo, magari io mi occupo di letteratura, conosciamo il passaggio di Pasolini, conosciamo il rapporto profondo che Pasolini ha avuto con la città di Barcellona. Sappiamo che alcuni vi hanno dedicato delle opere, che il gruppo 63 era stato invitato, insomma forse alcune cose sono anche da topo di biblioteca, però non mi aspettavo di trovare alcuni dettagli curiosi, non mi aspettavo di trovare per esempio un articolo in cui Teixidó, che è un poeta, parla di Montale, oppure non mi aspettavo di trovare una descrizione fantastica di Sagarra, di Giuseppe Maria di Sagarra, su Ungaretti, in cui parla di questa corona di capelli che sembrano carciofi. E quindi questi sono i dettagli che non mi aspettavo di trovare e che mi hanno colpito, e che secondo me questi vengono da un lavoro proprio di ricerca minuziosa. Per cui a grandi linee sapevo, ma non sapevo poi in realtà come molte cose fossero avvenute. Per esempio, non sapevo che Ungaretti venne una prima volta, ma poi tornò con Gadda nel 53 e, dovendo cambiare dei soldi sulla nave che li portava, alla fine decisero di spendersi, piuttosto che cambiare, di spenderseli tutti, e se li spesero in alcol, e quindi poi arrivarono al porto di Barcellona ubriachi fracichi, tenendosi per braccio, e appunto Gadda poi ci lascia questo ricordo di Ungaretti molto anche lì divertente. Per cui sì, è stato questo, tutto una scoperta, e alla base però c'era l'idea di creare sempre dei legami, delle reti, no? E questo penso quello che è la parte interessante, di capire come se i barcellonesi, i catalani, gli spagnoli hanno sempre guardato all'Italia, e di rimando cosa c'è stato, cioè quando gli italiani poi sono venuti a Barcellona, che cosa hanno restituito in un certo senso alla città con la loro presenza. L'hanno cantata, non l'hanno cantata, l'hanno ignorata, l'hanno disprezzata. Sereni non è molto entusiasta delle opere di Gaudì, per cui era questo, andare a capire proprio gli sguardi che si scambiavano, in che modo e perché. Infatti, già guarda, anticipi una domanda che ti volevo fare, perché un capitolo del libro, quello dedicato alla prosa, no? Riguarda appunto lo specchio di Napoli, Genova o di Milano, che ha a che fare appunto con anche l'immagine che si fanno e che poi appunto trasmettono gli scrittori italiani di come vedono Barcellona. Ecco, qual è l'immagine che creano di Barcellona, che si fanno, che poi trasmettono anche ai lettori italiani o ai conoscenti italiani? Ma direi che l'immagine è variegata, nel senso che dipende anche molto dal periodo in cui passano per Barcellona, perché la cosa che mi aveva colpito di questo, appunto, Barcellona è Napoli, Barcellona è Milano, Barcellona è Genova, c'è sempre questo bisogno in un certo senso di dare una italianità a una realtà che è completamente diversa, magari in un'altra città. No, uno scrittore avrebbe accettato la specificità di quella città, invece cercano sempre, appunto, sto parlando di Tondelli, appunto, oppure di Sereni, che dice appunto un po' come Milano ma un po' come Genova, poi c'è Tondelli che invece la paragona a Napoli. Ognuno cerca di portarla, in base a quello che osserva, di portarla verso una città italiana. Effettivamente è tutto uno sguardo. Questo sguardo poi dipende anche da quello che colgono di Barcellona. Tondelli dice che Napoli, perché rimane colpito da, lui immagina appunto in camere separate, immagina questo momento dei due amanti lì in una Pasqua, che tutta l'aria di essere una Pasqua afosa, colorata, no, piena di folla, e a un certo punto loro corrono tra i panni stesi fuori, e quello dà proprio l'idea. Lui lì vede Napoli, e poi c'è questa Rambla anche lì piena delle drogherie, piene di colori, di odori e di confusione. Quello quindi lui lo avvicina a Napoli. Poi c'è chi invece la vede molto nordica, rispetto a una Spagna, no? E questo è il caso per esempio di Germano Lombardi. Ognuno dà riconosce qualcosa ai barcellonesi che fa parte della grande contraddizione di Barcellona, ma che ognuno ci intravede qualcosa di specifico, che cerca di avvicinare a sé o di estraneare allo stesso tempo, non sappiamo poi in realtà, perché poi Tondelli non erano poi, quindi è molto particolare l'immagine che ne danno, secondo il mio parere. Ma e secondo te, è l'altra questione secondo me interessante, Barcellona lascia a tutti questi scrittori, ma penso anche ai poeti che nominavi prima, insomma agli italiani che sono passati di qua, che l'hanno conosciuta, l'hanno scoperta, ci hanno passato del tempo, gli ha lasciato davvero qualcosa, o dici che in fin dei conti non ha influenzato molto poi insomma la loro scrittura, la loro produzione, la loro maniera anche di vedere il mondo e in fin dei conti anche la Spagna? Non saprei, allora questo forse bisognerebbe chiederlo a loro, e spesso ho desiderato fortemente una seduta speritica, come feci, come quando andai a chiedere a Esprio se potevo tradurlo e andai al cimitero di Sinera di Arenste, ma forse qui avrei dovuto fare molte visite e aspettarmi una risposta da ognuno di loro. Penso che alcuni ne siano tornati, alcuni siano andati a cercare qualcosa che poi non hanno trasposto nelle pagine, e questa è l'impressione che mi sono fatta io. Altri hanno avuto legame molto forte con Barcellona, come per esempio il caso di Tabucchi, lo so perché ho avuto modo di, tramite un professore, di interloquire con la vedova, quindi però poi non l'hanno portato sulle pagine, anche lì l'hanno dedicato, c'è cioè un racconto che io cito dedicato a Barcellona, ma non, appunto, poi non riveste all'interno dell'opera di Tabucchi poi una particolare importanza. Invece per altri, secondo me, Barcellona ha significato qualcosa. Per esempio Montale nel 54 è inviato del Corriere della Sera e lui scrive che a Barcellona la poesia non è una povera cenerentola, ma i colleghi catalani amano e adorano la poesia, la propria poesia, non solo l'italiana che ovviamente tutti conoscevano, ma rispettano e adorano la propria poesia, quindi qualcosa che lui non riconosce per gli italiani, quindi secondo me qualcosa lo colpisce. Di sicuro Pasolini, sin dal Quaderno romanzo, è legato al catalano, è legato a Barcellona, i legami sono infiniti fino a quando, diciamo, sono molto particolari. Lui va addirittura nelle baracche, cerca di conoscere la realtà, perché per questioni nostalgiche, per varie molteplici ragioni, ed è profondamente legato a Barcellona, quindi quello senz'altro. E quindi ce ne sono alcuni che rimangono colpiti e che poi la portano con sé. Di tutti, forse, sto scherzando questo un po', quello che più rimane colpito, ma non è vero, è Mario Soldati, che dopo un rapporto travagliatissimo con Barcellona e con la Spagna, lui racconta che non riusciva mai ad arrivarci, ogni volta c'era una complicazione, quando ha 80 anni deve fare la cronaca del mondiale e lì appunto la parte barcellonese, quando poi l'Italia vince, no? Si avvicina sempre di più verso la Coppa, no? Lui lì lascia delle pagine strepitose, c'è un libro che si chiama Il Mondiale, in cui appunto, oltre ad azzardarsi in comparazioni tra il caldo infernale di Dante e il caldo che c'era a Barcellona, che è il caldo poi di questi giorni, fa anche delle no? si infervora tutto per queste vittorie, quindi sicuramente lui torna in Italia con una Barcellona nel cuore, quello probabilmente, però tolto quello, credo che in alcuni, appunto Montale, Pasolini, il lascito sia stato più che discreto. E ascolta, molti dei nomi che ci stai facendo, la maggior parte ovviamente, hanno a che fare con insomma i grandi scrittori del Novecento italiano, che soprattutto, no, non tutti ma in buona misura, hanno conosciuto Barcellona, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale e negli anni del tardo franchismo, quindi anni in cui, insomma, tra l'altro le lotte sociali, il tentativo, insomma, di finirla con la dittatura di Franco, nei contatti di molti di questi scrittori ha avuto un peso importante, ecco. Credi che anche questa situazione di Barcellona e ovviamente della Spagna abbia pesato nell'interesse che poteva esserci verso questo paese? E in secondo luogo, invece nel periodo posteriore, avvicinandoci a noi, negli ultimi 40 anni, credi che si sia mantenuto un legame così forte? Non lo dico tanto per la comunità italiana di Barcellona, che come sappiamo è cresciuta, è la prima comunità in numero, no, degli stranieri residenti a Barcellona, ma invece in questi contatti appunto culturali tra letterati, registi, autori di teatro italiani, insomma, si è mantenuto questo legame solido o in fin dei conti stiamo guardando a qualcosa del passato che è un'epoca, no, un momento importantissimo per la cultura italiana ed europea, gli anni 50, 60 e 70, che ora in fin dei conti è un po' scomparso. Qual è un po' la tua impressione al riguardo? Allora, la mia impressione è appunto, sì, io direi, secondo quello che, secondo l'idea che mi sono fatta, è che, diciamo, se parliamo di scrittori, se parliamo di cineasti, di direttori, di registi, arrivano probabilmente anche per altre ragioni. Non sono attratti dalla situazione che sta vivendo la Spagna intera. Non tutti sono interessati, forse alcuni, tranne un Germano Lombardi, che è uno del gruppo 63, che lui sceglie proprio di vivere a Barcellona, forse l'unico. Gli altri probabilmente non mostrano una particolare empatia, la mostrano più, la mostrano più gli editori, e questo è particolare, no? Nel senso che quello che si viene a stabilire in quegli anni invece è proprio una solidarietà e un legame forte tra alcuni editori, quindi non tanto gli autori, non tanto i registi, ma sì alcuni registi teatrali, non di cinema, sì alcuni registi, quello sì, ma soprattutto gli editori, quello che io ho potuto vedere, perché per esempio Carlos Barral, che è poi il fondatore, un poeta, ma anche il fondatore della Seix Barral, lui, diciamo colui che in realtà prende le redini della Seix Barral, si appoggia a Einaudi proprio per... trova in lui un alleato, non solo dopo che c'è stato il premio Formentore, c'è tutta questa storia, tra l'altro Einaudi aveva mandato come a studiare la situazione di questi amici catalani, Calvino, che addirittura Barral descrive come una vedette di simpatia, quando Calvino, si sa dalle memorie della moglie, che a volte non apriva bocca nemmeno durante una cena, però a quanto pare a Formentor si era trovato molto bene, gli si era trovato a suo agio. Fatto sta che Einaudi in realtà e Barral stringono, quindi Calvino consiglia a Einaudi di andare a conoscere questo gruppo, Giuseppe Maria Castellet, Barral eccetera, e si stringe un rapporto molto intenso. E quando Barral stesso viene perseguitato dalla censura franchista, e tra l'altro poi purtroppo ne pagherà anche lo stesso Einaudi, ma anche per altre ragioni, sarà Einaudi al ritorno da Formentor a Barcellona, dentro l'Hotel Manila, a convocare una riunione in cui spiega a Barral, a Castellet e tutti quanti come si devono comportare con la censura. Perché questo ce lo ricorda Giuseppe Maria Castellet, perché dice: io vengo dal fascismo, ho già passato, no, le Einaudi, certo, e già so cosa significa avere a che fare con una dittatura, quindi gli dà proprio dei consigli su come dovranno comportarsi. E quindi questo è molto particolare e molto interessante. Lo stesso discorso vale per un altro come Herralde di Anagramma, che tra l'altro Anagramma nasce da un titolo italiano, lo stesso nome. Anche lì Herralde, quando passa per la censura, comunque ha dalla sua Inge Feltrinelli, cioè comunque si creano questi legami che sono molto più ramificati di quello che sto descrivendo, ma che portano i barcellonesi ad appoggiarsi agli italiani, e agli italiani a interessarsi alla loro sorte, e quindi per Einaudi anche a pubblicare titoli che diventano poi rischiosi per Einaudi stesso, che dovrà andare a processo, gli verrà tolto. Certo. Eh sì, è molto molto movimentato, quegli anni sono convulsi, movimentati, ma più per gli editori. E poi invece negli ultimi tempi, secondo me, il tipo di arrivo italiano è completamente diverso, si cercano altre libertà che probabilmente l'Italia, ancora legata a un mondo patriarcale eccetera, non sa dare, e quindi per lo più è un interesse non sempre diciamo di artisti. Io credo che gli artisti siano molti, diciamo arrivano in vario modo, con varie esigenze, sicuramente ci sono probabilmente voglio dire come un Busi, arrivano con altre necessità e poi scrivono scrivono della città. Però va anche detto che figure come quella di Massini, cioè nel senso figure come quelle di alcuni intellettuali, poi trovano il loro esordio proprio a Barcellona. Quindi non è vero che questo legame poi si sia spezzato. Che sia spezzato, no, probabilmente con lo sguardo, diciamo, con distanza di anni ci soffermiamo su questi autori, oppure su Antonioni, su Rossellini o ancora su Strehler, che ha avuto un rapporto molto profondo con la città, su Pirandello, però in realtà chissà che tra 30 anni non se ne possano indagare altri, perché gli artisti comunque ce ne sono molti. È stata una migrazione che ha coinvolto anche lì molto, no, stratificata, cioè gli italiani oggi a Barcellona hanno numerosissimi interessi e ricoprono, diciamo, sono di ogni tipologia, se vogliamo. Sì. Beh, guarda, di questo magari potremmo parlare in un'altra occasione, perché così facciamo una visione panoramica di quello che c'è in circolazione e il tuo aiuto sarà prezioso. Amaranta, grazie davvero di essere stata con noi, e ricordo ancora ai nostri ascoltatori il titolo del tuo libro, Solare, Notturna e Sonora, Letteratura e Cultura Italiana a Barcellona, pubblicato per questa nuova collana Barcellona e la Letteratura Universal dal comune, appunto, della Ciutat Comdal. Amaranta, grazie, complimenti per questo lavoro e mi auguro di averti presto di nuovo con noi. De nuovo, grazie a voi, grazie a te, è stato un piacere e buona lettura, e speriamo di incontrarci di nuovo presto e parlare ancora di Barcellona e dell'Italia. Grazie ancora. Nasci con i denti perfetti, cresciuti in quartieri borghesi, non ti danno consigli per crescere, ma bugie per farli stare meglio. Falliranno solo da adulti, quando i figli si faranno grandi. Nei salotti per bene. Canti per rabbia e piangi per rispetto. Mi affascina il suono della tua chitarra quando suoni per te. E tutti sorridono un po' quando i belli cadono, e si rilassano quando pure i ricchi si fanno male. Vorrei che la tua infanzia durasse per me quanto dura per te. E quando mi rincontrerai, che cosa diremo? Tu sarai cambiato, mi guarderai ancora negli occhi, oppure non avrai il coraggio di quando eri puro come la rugiada a maggio. I tuoi amici con gli denti perfetti, i miei amici crescendo da quartieri borghesi, mi diranno non se ti danno consigli per crescere. La ricerca dell'armonia in un tempo difficile ispira l'Ayatollah Khamenei, che riappare in completo bianco e foulard per la prima volta dopo giorni, cantando Buonanotte fiorellino per le nozze da favola di 320 pasdaran sull'isola greca di Chios in fiamme, poi rassicura: sempre meglio che a Teheran. È tornata la figura del family coach. I media americani USA pronti a offrire Francis Kaufman a Teheran per la rinuncia al nucleare. Spiraglio anche a Gaza, raggiunta l'intesa tra la crudeltà e la premeditazione. Telefonate moleste per offerte di luce e gas. Nel 97% dei casi si tratta di Putin. Le autorità: verificare sempre l'identità del chiamante e sottoporlo al test del DNA. La precisazione del direttore della CIA: sto bene fisicamente e mentalmente. Vertice NATO, raggiunta l'intesa sulle spese militari. La Juventus si intesta il successo del summit, poi incontra Orban e un nazista in piscina per trovare un po' di fresco senza allontanarsi troppo da casa. Da 3 giorni divenuto culto, il direttore del giornale Sallusti punta a rivoluzionare l'Eucaristia, la mia autostrada per il cielo. Volerà sull'acqua grazie a tecnologie all'avanguardia e sarà autosufficiente dal punto di vista della destra estrema. L'avete sentito, sono tornate anche le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Tra l'altro, Banzo, sono le ultimissime della stagione, le ultime ultimissime della stagione, perché la prossima settimana c'è l'ultima puntata che, come tutti sanno ormai, è tradizione, sono le canzoni dell'estate. Però insomma, bando alle ciance, un commento telegrafico su questi ultimissimi in un mondo sempre più complesso e sempre più violento. Sempre più brutto, lo spiraglio a Gaza. Io direi che l'intesa fra la crudeltà e la premeditazione non è stata raggiunta recentemente, purtroppo, ma poi abbiamo anche questa notizia sconvolgente su Putin, quelle tremende telefonate. Anche qui in Spagna soffriamo molto il fuoco di fila dei teleoperadores. Pensavamo fossero i poveracci che devono lavorare, invece era sempre Putin nel 97% dei casi. Quindi state attenti, ecco, perché è pericoloso, insomma, e non avrei mai pensato, ecco, non pensavo si spingesse a tanto, ecco, detto di uno che ha scatenato una guerra, va bene. Va bene, andiamo avanti, ci siamo ascoltati prima anche un'altra nuova uscita che c'era dall'Italia, Struppi, lo pronuncio così all'inglese perché è TH all'inizio, perché è un nuovo progetto di un bravissimo cantautore che abbiamo seguito qui negli ultimi anni a Zibaldone, l'ultimo decennio largo, Giovanni Truppi, insieme ai componenti di un collettivo che si chiama Through Collected. Entrambi sono di Napoli, un paio di settimane fa, tre ormai, è uscito un nuovo disco, un loro disco, il primo in questa collaborazione, che si intitola appunto come loro, Struppi, come questa qualità, per così chiamarla, questa nuova collaborazione di Giovanni Truppi. Denti perfetti è il titolo della canzone, e appunto è un viaggio questo disco nella città che condividono, appunto Napoli, e che unisce diversi anche generi: il cantautorato, lo spoken word, il rap, insomma qualcosa lo avete sentito. E insieme a Truppi la voce è in questo brano quella di Sano, al secolo Riccardo Capone. Noi però andiamo subito, velocissimi, Banzo, con un'altra novità, che è di un artista che non solo seguiamo, ma è stato nostro ospite in varie occasioni, che fa da tanti anni bellissime cose, sempre all'avanguardia, Fabrizio Tavernelli. Qui ha messo in piedi un progetto insieme a Manitou Rossi, delle forbici di Manitou. Si intitola Energumeni, questo disco, uscito sempre in questo 2025, e noi ci andiamo ad ascoltare la canzone proprio omonima, Energumeni. We'll be right back. si accendono come i fiammiferi. E energumeni dai pensieri imperscrutabili. E energumeni dai furiosi monologhi. E energumeni meno numeri, meno numeri. Energumeni, tra l'altro, è anche proprio il titolo del progetto. Ossia, Fabrizio Tavernelli e Manitou Rossi si presentano come energumeni. Energumeni è il titolo del disco, Banjo è il titolo di questa canzone. E i testi sono sempre fondamentali, ma c'è anche un bellissimo lavoro di sperimentazione musicale. Beh, diciamo che con tutto l'energumeno, la parola energumeni è proprio il punto di tanti, il centro di tanti cerchi concentrici. Scusa, mi stavo un po' incartando. Sì, beh, d'altronde trattandosi di Manitou Rossi, che è il nome appunto dietro le forbici di Manitou, che lo dico nel caso non l'abbiate presente, hanno una carriera di 42 anni di attività sperimentando, ecco, con queste premesse è lecito aspettarsi qualcosa di buono, qualcosa di originale, qualcosa di spiazzante, e poi c'è il contributo di Tavernelli, che appunto seguiamo da tanto tempo per quello. Ci sono tante influenze, queste ritmiche pese, granitiche, primordiali, un suono anche un po' dub, se vogliamo, ovviamente c'è della psichedelia, i riferimenti sono molti e anche nel testo del brano ce ne sono tantissimi. Io sono sempre favorevole a citare Hammurabi, non perché sia un grande... Non perché sia un grande fan del suo codice, che trovo un po' superato per i tempi in cui viviamo, ma perché effettivamente è un riferimento iconico. Quindi per me con Hammurabi si vince sempre facile. Comunque sì, approfondite, non avremo il tempo di approfondire questo disco nel corso di questa stagione, quindi ma magari ci torniamo. Esatto, ma magari ci torniamo. Ascoltatelo quest'estate. A proposito di estate, la settimana prossima ve lo dicevamo, le canzoni dell'estate, e noi in realtà insomma le anticipiamo un po' con l'ultimo trago di questa puntata di Zibaldone, perché insomma parliamo del mese di luglio e voliamo in Francia, Banjo, no? Beh sì, d'altronde la Francia è un'ottima destinazione per le vacanze, Steven, ma c'è dell'altro, perché appunto sì, con che canzone cominciano tutte le puntate dedicate alle canzoni d'estate? Appunto con Luglio di Riccardo Del Turbo, quindi ve ne proponiamo una versione che probabilmente non avete mai sentito, io non l'avevo mai sentita, quindi è sempre bello imparare. Ed è in francese, come si intitola, Juliette? No, si intitola Le Petits Pains au Chocolat, perché il testo non c'entra assolutamente nulla, Steven, è uscito nel 1969, quindi a stretto giro, perché l'originale è dell'anno del 68. Prima, sì. Esatto, anno mitico anche solo per quello, non forse per tutto il resto. E abbiamo il paroliere Pierre Delanoë che appunto molto ispirato confeziona una storia completamente diversa, ve la spoilerò brevemente, è una storia d'amore fra una fornaia croccante come i suoi croissant e un cliente, e rischia di non andare a buon fine per via della miopia di lui, e quindi cosa gli verrà in soccorso? Un paio di occhiali, io ne so qualcosa, visto che non posso uscire per la strada senza occhiali, quindi è bello che gli occhiali ci aiutino a vivere, e in questo caso facciano anche trionfare l'amore, Steven, e fecero anche trionfare il brano, non so se gli occhiali o l'arrangiamento, che è un po' diverso da quello di Del Turco, perché in Francia e in Belgio, quindi c'è il mondo francofono, il brano raggiungerà il secondo posto nelle classifiche vendendo complessivamente 400.000 copie, quindi un successo veramente tonante. Vabbè, bravo Riccardo Del Turco. Comunque ascolta, niente, ci salutiamo qua perché finisce il programma, ci troviamo venerdì prossimo come sempre su Zibaldone per salutarci anche in questo fine stagione 2024-2025, come era solito dire. Dunque il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, alle 17.55 diceva tutti i venerdì. Bravissimo anche Joe Dassin, che andiamo ad ascoltare e che non faceva telefonate moleste a differenza di Putin. Per fortuna, anzi guarda, le telefonate di Joe Dassin io le avrei anche, insomma, ascoltate volentieri, ci avrei parlato un po'. Vabbè dai, ciao a tutti, buon venerdì sera. Tous les matins il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Dans la boulangerie en fête, un soir on est marié. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tout en blanc, qu'elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, myopes comme papa. Gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pains au chocolat. Qu'elle vie est très bien faite, il suffit de si peu. D'une simple paire de lunettes pour accrocher deux êtres et pour qu'ils soient heureux.